Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la trasmissione che ormai quotidianamente vi accompagna da circa un anno e mezzo. Allora, ricordo la mail alla quale scrivere le vostre segnalazioni: unabusoalgiorno@radio24.it, oppure vi invito a visitare il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore online, quindi parliamo di internet, oppure digitate robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Allora, oggi parliamo di assicurazioni, ma in realtà non solo di assicurazioni, lo sentiremo. Ne parliamo perché la segnalazione che ci è giunta da una radioascoltatrice ligure in realtà sarà comune anche per l'importanza della compagnia assicuratrice a chissà quanti di voi. Io per parlare di questo caso introduco subito il nostro primo ospite, che è la radioascoltatrice Erika Giors di Savona. Benvenuta Giors. Oh, buongiorno. Allora, io direi di partire subito con il racconto della sua storia abbastanza strana. Lei ha uno scooter che è assicurato presso Allianz Assicurazioni, giusto? Esatto. Benissimo. Al momento della stipula del rinnovo della polizza, quando sono andata presso la mia agenzia, della quale devo sottolineare comunque la cortesia e la disponibilità del personale, mi è stato dato l'importo del premio di 246 euro, più una richiesta di 15 euro per una tessera Amici di Motociclismo. Ecco, una richiesta che era una gentile richiesta, o come accade all'università in cui i libri facoltativi del titolare di cattedra diventano, come dire, la condizione necessaria e sufficiente per essere promossi? Diciamo che se non avessi preso la tessera Amici di Motociclismo non avrei usufruito di uno sconto sulla polizza e sarei andata a pagare 40, 50, 60 euro in più, ora non mi ricordo neanche più la cifra esatta. Quindi se lei non avesse stipulato questa sottoscrizione al club Amici di Motociclismo non avrebbe avuto lo sconto, quindi insomma diciamo così un po' forzata come cosa. Diciamo che è un'offerta che non si poteva rifiutare. Ecco, allora, che tipo di agevolazioni dà essere membro del club Amici di Motociclismo? Ma garantito è lo sconto sull'assicurazione, che comunque è un'altra assicurazione nazionale, un preventivo nelle medesime condizioni, senza essere amica di nessuno, e mi sono stati chiesti 203 euro. Sì. Quindi comunque la polizza era già abbastanza polposa di suo. Ad ogni modo, Amici di Motociclismo dà la possibilità di usufruire ogni tot litri di benzina presso i distributori ERG convenzionati, dei quali ERG ce n'è tre nella mia provincia, tra l'altro, quindi non è che siano frequentissimi, di buoni sconto. Ogni tot litri di benzina una percentuale di sconto. Ho capito, ecco, lei conclude la sua lettera dicendo: secondo me c'è materia da studiare, e siccome a me piace moltissimo studiare, gli esami non finiscono mai, e poi i giornalisti, lo ripeto sempre, sono i più grandi ignoranti della terra, noi ci siamo messi a studiare. Allora intanto abbiamo contattato Allianz Assicurazioni, la quale in attesa che si faccia viva di persona attraverso qualche rappresentante, perché l'invito rimane, ha scritto la seguente lettera. Oggetto: reclamo cliente per polizza scooter in convenzione con Pronto Moto. Milano, 26 gennaio 2009. Siamo sinceramente dispiaciuti per la lamentela della signora Erika Giors, nostra cliente da diversi anni. La signora Giors ha ragione sull'obbligo di sottoscrivere una quota associativa annuale al Club Amici di Motociclismo, contestualmente all'acquisto della polizza RCA per il suo scooter. Si tratta però di una formula commerciale molto apprezzata dai nostri clienti, che le dà il beneficio di accedere a una tariffa scontata. Prendiamo atto del disinteresse della cliente verso il club e le confermiamo che è libera di abbandonare questa tariffa. È evidente però che abbandonandola rinuncia a quello sconto. A tutt'oggi il costo del suo premio a tariffa piena, senza cioè aderire alla convenzione, sarebbe superiore a quello da noi propostole. I 15 euro pagati al Club Amici di Motociclismo le permettono ancora un risparmio netto di 42 euro sul premio assicurativo. Cordialmente, Direzione Comunicazione e Immagine, Allianz SPA. Allora, abbiamo sentito quello che dice Allianz, dice libera di tornare indietro, però rinuncia allo sconto. In ogni caso, mi sembra che sia una formula abbastanza, come dire, così confusa, diciamo, perché è una sorta di sovvenzione occulta, ma nemmeno tanto, perché poi uno sottoscrive la polizza ad amici di motociclismo, di cui non metto in dubbio la bontà, al punto tale che li abbiamo invitati in trasmissione e abbiamo con noi il responsabile del club Amici di Motociclismo, Paolo Tognoni. Benvenuto Tognoni. Buongiorno a tutti. Allora, sono cattivo nel dire che è una forma di finanziamento occulto? Onestamente sì. Sì, sì, ma me lo dica sì. Pure. Non è, innanzitutto non è un finanziamento occulto, in quanto Allianz e il club Amici Motociclismo hanno studiato, quando è nato il club, che è emanazione della rivista Motociclismo, che è un mensile edito da Edisport, edito dal 1914, quindi insomma siamo abbastanza... Siamo conosciuti, ma infatti nessuno discute sulla bontà della vostra attività. Non è, innanzitutto, essendo noi partner di Allianz, anzi, essendo Allianz un nostro partner... Sì, Allianz infatti fa parte, sul sito appare proprio come il vostro primo partner. È il primo partner anche perché è il primo partner anche in ordine di tempo. Certo. Ingresso nel gruppo di partner del club Amici Motociclismo. Non ritengo che sia un finanziamento occulto, in quanto l'assicurazione Pronto Moto, studiata da Motociclismo e Allianz nel 2004, è una particolare assicurazione studiata ad hoc per i motociclisti. Ogni motociclista è libero di stipulare l'assicurazione Pronto Moto in Allianz, come è libero di aderire al club per poter usufruire di tutti i vantaggi che il club offre. Sì, però mi sembra, Tognoni, ripetendo che non siamo assolutamente qui per mettere in discussione la bontà del vostro operato, che è conosciuto da anni, come lei stesso ci ricordava, mi pare che ci sia un po' un gioco di uno scaricabarile da parte di Allianz, che dice, ma la nostra cliente è libera di aderire o non aderire, però se non aderisce perde lo sconto. Ora però mi deve dire qual è il collegamento tra la libertà di scelta di una assicurata o già assicurata e l'obbligo invece comunque di aderire a quella polizza che automaticamente l'inserisce nel vostro circuito. A me non sembra molto chiara la cosa, se lei può spiegarcela. Sì. Pronto Moto non è innanzitutto l'unica polizza che Allianz offre agli assicurandi, è una delle varie opzioni. È sicuramente, visto che ormai il club conta 85.000 soci in tutta Italia, questi 85.000 non dico tutti, ma la stragrande maggioranza sfruttano l'opportunità di assicurarsi con Pronto Moto. È un'assicurazione che anche nel caso della signora offre comunque un vantaggio, un risparmio, piccolo o grande a seconda dell'assicurato, della tipologia, di mezzo assicurato, della ecco, regione, mi scusi Tognoni, ma 85.000 soci tutti quanti presi attraverso Allianz in questo modo, no? No, ecco. Assolutamente. Non infatti il concetto di fondo è che essendo Allianz un partner per noi importante, perché comunque offre un vantaggio potenziale a tanti motociclisti, ha la possibilità di far stipulare, è l'unico dei nostri partner che ha la possibilità di far stipulare, ovviamente liberamente, l'associazione al club direttamente in agenzia. Tanti nostri assicurati che si sono associati direttamente tramite noi, attraverso il nostro sito o attraverso la rivista Motociclismo, noi mettiamo tutti i mesi 5 pagine dedicate al club, di cui mi occupo direttamente io, sulla rivista Motociclismo, con un modulo di iscrizione. Questo è chiarissimo. Si iscrive perché possono usufruire di vari sconti, dallo sconto sull'abbonamento alle nostre riviste, sconti in alberghi, no, questo è chiarissimo. Sì. Allora, però io a questo punto vorrei tornare dalla nostra radioascoltatrice, Erika Giors, perché ha sentito la risposta di Allianz, che ripeto non interessa soltanto la signora Giors, ma migliaia sicuramente di persone che hanno uno scooter e sono assicurati con Allianz, che è un grandissimo gruppo assicuratore, e la risposta di Paolo Tognoni, che rappresenta appunto il club Amici di Motociclismo. Ecco, che cosa da replicare, signora Giors? Secondo me è giustissimo che tramite le pagine della loro rivista vendano questa tessera. È meno giusto che questa tessera sia offerta da Allianz in maniera così diciamo torto collo, perché a questo punto io ho avuto lo stimolo per attraversare la strada, andare presso un'altra agenzia, un'altra assicurazione, chiedere un preventivo e comunque, senza essere amica di nessuno, ripeto, mi hanno fatto un primo prezzo del 30% in meno. Ecco, quindi a questo punto io nel ringraziare la signora Giorse passo la palla a Tognoni dicendo magari queste forme un po' coercitive, ripeto ancora una volta, contrattualmente accettate, quindi tra l'altro credo, poi sentiremo anche altri esperti, legittime, rischiano di diventare un boomerang, Tognoni. Ma guardi, in realtà molti dei nostri soci che poi sono andati in seguito in Allianz per stipulare l'assicurazione sono molto contenti del fatto di potersi associare direttamente in assicurazione, perché comunque poi si possono far fare un preventivo gratuito a monte prima di iscriversi e prima di andare in agenzia, perché se poi la maggior parte degli assicurandi sono come me, mi sta scadendo l'assicurazione, devo correre, vado in assicurazione, chiedo un preventivo e mi dicono guarda c'è anche l'opzione di avere lo sconto su Pronto Moto se hai interesse a diventare socio del Club Amici di Motociclismo usufruendo di vari altri vantaggi. Se non fosse possibile stipularlo direttamente in agenzia, probabilmente molti non potrebbero sfruttare neanche la convenzione Pronto Moto. Va bene, comunque, ecco, assicurativa. No. Ok, comunque le posizioni mi sembrano siano chiarissime. Come sempre, i nostri radioascoltatori si faranno la propria idea. Credo che nei prossimi giorni torneremo su questo argomento con nuove voci. Nel frattempo io ringrazio regia Giorgio Mattè e in studio Laura Fagina. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.